nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Una buona giornata, un buon pomeriggio, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, ben ritrovati col nuovo ciclo di Nessun Luogo è Lontano. Miriam Lucchetti in redazione, il saluto e arriva anche da lei, e Gianmarco Ferronato in regia. Prima puntata di questo nuovo ciclo, lo dicevo, prima puntata questa settimana la dedicheremo a 5 puntate speciali per tratteggiare una sorta di glossario, un vocabolario minimo per poi seguirci durante un mese di programmazione di Nessun Luogo, tutto il mese di agosto, dove lì sì, racconteremo ciò che accade al di fuori dei nostri confini, giorno dopo giorno, ora dopo ora, perché è vero che magari alcuni di voi vanno in vacanza, ma l'attualità internazionale è quella, figurarsi. Allora, 5 temi forti, dicevo, 5 categorie da tenere ben presente per leggere ciò che accade in Europa e nel mondo, un vocabolario minimo, come ogni vocabolario che si rispetti. Partiamo dalla lettera A, A come armi. Come armi, ma anche a come arsenale, gli arsenali libici ad esempio, quelli scoperchiati nel 2011, che hanno rifornito milizie e gruppi armati in mezza Africa e non solo. La recente storia ci ha consegnato eclatanti casi di stock di armi anche pesanti, finite in mano a persone che proprio non ci si aspettava, e ancora le armi finite in mano ai tanti gruppi jihadisti in Siria. Soltanto tenendo ben presente quali armi girano e come vengono usate, potremo comprendere cosa sta accadendo nei principali teatri di crisi internazionali. In questa puntata in Nessun Luogo Lontano dedicheremo particolare attenzione al traffico di armi, cioè quelle armi non registrate che però sono usate in un determinato territorio. E con attenzione, lo ripeto, alle armi di piccolo calibro, sulle quali molti studiosi hanno focalizzato la loro attenzione. Perché se pensate che siano i grossi calibri, i missili, terra, aria, a fare i morti, ecco, allora vi sbagliate. La più grande arma di distruzione di massa è il Kalashnikov, il fucile d'assalto, quello che non si inceppa mai, quello che ha attraversato decine di battaglie, passando lui sì indenne tra appunto tanti campi di battaglia, quello presente in Centro America, in Afghanistan, in Africa, in Siria, in Iraq. Prima di tratteggiare quest'arma terribile, ascoltiamo un po' di numeri, perché dobbiamo capire quanto vale e quanto impatta il traffico mondiale di armi. Secondo le stime fornite dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane, il valore finanziario del traffico illecito di armi leggere di piccolo calibro nel mondo arriva a $1 miliardo ogni anno. Per le loro dimensioni, la facilità d'uso, i prezzi accessibili, le armi leggere, le armi da tasca, sono quelle più utilizzate in 46 dei 49 conflitti regionali registrati dall'ONU dal 1990 ad oggi, causando 500.000 vittime all'anno. Ad aggravare il volume delle armi diffuse illegalmente contribuisce, già a monte della catena del traffico, la scarsa trasparenza nell'interscambio autorizzato di armi tra stati e la totale assenza di norme vincolanti che prevengano il trasferimento e l'importazione di armi e munizioni da paesi sui quali vige un embargo. Attualmente, infatti, non esistono criteri univoci e universalmente applicabili per disciplinare il commercio transfrontaliero di armi regolarmente autorizzato dai governi. Questo nonostante siano più di 2.000 le persone che ogni giorno vengono uccise da un'arma da fuoco. Tra le armi più diffuse illegalmente c'è il fucile AK-47, meglio noto come Kalashnikov, così chiamato dal nome del suo inventore, Mikhail Kalashnikov, che progettò l'arma per l'armata rossa sovietica nel 1947. Del peso di 4 kg per una lunghezza di 860 mm ed una potenza di tiro fino a 400 metri, questo fucile d'assalto è utilizzato dalle forze armate di 50 stati e da numerosi gruppi e organizzazioni armate nel mondo. La sua enorme diffusione è data anche dalla sua facile reperibilità, sia come eccedenza di produzione di modelli più obsoleti che come residuato bellico. Per esempio, dopo le guerre che hanno segnato la dissoluzione dell'ex Jugoslavia, o più di recente, dopo la caduta del regime di Gheddafi in Libia. Attualmente il prezzo medio di una K-47 nel mercato nero è di $534. I più economici sono quelli prodotti in Russia e in Cina, lievemente più cari quelli prodotti in Nord Corea. In Africa, nella zona del delta del Niger, il prezzo scende a soli $75. In Sudan, per comprare il Kalashnikov da un trafficante, bastano $86 per un adulto e $33 per un bambino. In Afghanistan, invece, una K-47 di produzione cinese vale $400, mentre in Iraq si va dagli $800 fino ai 2.000 chiesti dai trafficanti per quello che era il modello preferito da Osama Bin Laden. Nel mercato nero interno alla California, negli Stati Uniti, la K-47 costa $400, ma al di là del confine con il Messico arriva a costare dai 1.400 fino ai $3.000. La maggior parte degli acquirenti dei trafficanti d'armi californiani sono i cartelli messicani del narcotraffico. Allora, gentili ascoltatori, da questa prima fotografia capite bene dell'importanza del tema che stiamo affrontando quest'oggi in Nessun Luogo Lontano e quanto vada a impattare non soltanto in zone di guerra vere e proprie, perché quando un fucile d'assalto, un'arma militare valica i confini e arriva poi nel cuore di una città, nelle mani sbagliate, ovviamente le conseguenze sono facilmente immaginabili. Però io vorrei proprio partire da quest'oggi, da quell'invenzione del sergente Mikhail Kalashnikov, che fra l'altro è da poco scomparso, e volevo farlo con una lettura che vi ripropongo. Agli inizi, quando la K-47 entrò pienamente in produzione nel 1948, il ponte aereo verso Berlino aveva suonato il rintocco iniziale della Guerra Fredda e la minaccia di un conflitto con gli Stati Uniti aveva determinato la carriera del generale da quel momento fino alla caduta del comunismo. Sebbene dopo il crollo dell'Unione Sovietica avesse fatto amicizia con Eugene Stoner, l'inventore dell'M16, era andato varie volte a trovarlo negli Stati Uniti, restava il fatto che Kalashnikov aveva trascorso la maggior parte della sua vita professionale a progettare armi per uccidere gli americani. La sua curiosità quasi infantile sul giudizio che davano gli americani sulle prestazioni dell'AK in Iraq era palese. «Mi dica», domandò, «che cosa ne pensano del mio fucile i soldati americani in Iraq? Sono sbalorditi dalla sua resistenza a sabbia e polvere. Gli M16 gli danno problemi, di tanto in tanto si inceppano a causa delle condizioni atmosferiche. Invece hanno catturato degli AK appartenenti alla resistenza che non erano stati puliti per giorni. Eppure sparavano ancora benissimo». Lui sorrise. «Sono i corsi e ricorsi della storia. Già altre volte l'M16 non è riuscito a stare al passo con la K-47. Come già nel Vietnam, l'arma di Kalashnikov si stava dimostrando superiore all'M16. I soldati americani si lamentavano ancora del cattivo funzionamento delle armi automatiche in loro dotazione. In Iraq non erano il calore e l'umidità, ma la sabbia e la polvere finissima che facevano inceppare i fucili, e per mantenerli operativi il tempo libero era dedicato alla pulizia delle armi». E così scrive Michael Hodges in un passo del suo libro Kalashnikov, il fucile del popolo, un volume edito in Italia da Tropea, un volume molto importante perché Michael Hodges è un freelance abituato anche a lavorare in zone di conflitto e ha tratteggiato la storia, ma anche con aneddoti di prima mano, incontrando miliziani, raccontando storie vissute da soldati e militanti con quel fucile in mano, ha raccontato appunto la parabola di questo non ancora terminata, di questa incredibile e distruttiva arma. Abbiamo raggiunto Michael Hodges, che ricorda così il suo primo incontro con la K-47. Ero molto giovane e ingenuo. Ero al confine tra Israele e Libano. Ho assistito a una sparatoria delle forze dell'OLP contro alcuni miliziani cristiani. Non riuscivo a capire da dove arrivassero i colpi. In quel momento ho visto un uomo sventolare il suo AK-47 come se fosse un simbolo di potere, qualcosa che potesse sconfiggere i nemici. È stato allora che ho capito che la K-47 aveva qualcosa di magico, qualcosa di molto potente. Ero giovane, ma quell'impressione mi ha sempre accompagnato. Quali pensi che siano le altre ragioni del successo della K-47 in tutto il mondo? think they're simple. In that it is simple, it's very easy to use. Penso che sia innanzitutto la semplicità. La K-47 è davvero molto facile da usare. La sua tecnologia non è molto diversa dal primo prototipo realizzato 70 anni fa. Si tratta di un'arma composta da 8 parti, molto facile da produrre. Non è finemente progettata come molte delle armi usate dalle forze occidentali. Puoi sotterrarlo per 3 mesi, tornare a prenderlo e funzionerà ancora. E poi è molto conveniente. Ce ne sono milioni e milioni nel mondo. Go back, dig it up, and it will still fire. And of course, it's cheap. And there are millions and millions of them around the world. You know? Sei ancora stupito che sia ancora molto in auge, anche in eventi recenti come la nuova guerra in Iraq o la rivoluzione libica, per esempio. You know, I'm not surprised, and I am surprised. In parte sì e in parte no. I miliziani dell'ISIS in Iraq hanno un business. Vendono t-shirt. E se guardi su queste magliette, l'immagine che compare più frequentemente, dopo le scritte in arabo, è proprio quella della K-47. Questi miliziani sanno, come lo sapeva Bin Laden quando lo usava nei suoi videomessaggi, che la K-47 non è solo un'arma, è un simbolo di rivoluzione e di resistenza. Un simbolo ancora molto forte. Il mio libro è uscito ormai 5 anni fa, eppure la K-47 è ancora molto forte e potrebbe diventarlo ancora di più. You know, powerful as a brand, but maybe I'm wrong, it seems as powerful now as it's ever been. Quali sono le ragioni per cui la K-47 è diventato un'icona e non solo un'arma? I think it probably began in the 60s when it was associated with resistance to imperialism. Credo che sia un fenomeno cominciato negli anni 60, quando la società era scossa da un'ondata di resistenza all'imperialismo. All'epoca la sinistra europea e quella americana erano infatuate dei guerriglieri, ed era anche l'epoca in cui la televisione mostrava per la prima volta al grande pubblico una guerra direttamente in casa. Credo che questi due fattori siano stati cruciali. Durante la guerra in Vietnam, le foto dei Viet Cong e delle truppe nord-vietnamite che imbracciavano l'AK-47 erano molto diffuse. L'AK-47 diventò famoso per la sua forma inconfondibile, con quel caricatore a forma di banana, un marchio riconoscibile all'istante. Possiamo incolpare noi stessi. In fondo abbiamo creato noi questa icona in Occidente, un marchio di resistenza riconoscibile quanto la Coca-Cola. Pensi di poter scrivere un altro libro sul declino della K-47 oppure c'è una nuova rinascita di quest'arma? You know, it's strange you ask that because obviously in this winter Kalashnikov, who I knew. È uno strano tema perché quest'inverno Mikhail Kalashnikov è morto. E secondo alcune testimonianze pare che prima di morire si sia pentito e abbia chiesto perdono per ciò che aveva fatto. Questo fatto mi ha sorpreso molto, perché Kalashnikov era un vecchio stalinista e non certo un uomo religioso. Credo che potrei scrivere un libro sulla K-47 ogni anno, perché c'è sempre un colpo di scena nella storia di quest'arma incredibile. Ma perché è importante analizzare il traffico di armi, al di là delle simbologie e del valore di icona, di brand addirittura, che ha spiegato Michael Hodges? Perché il traffico illecito di armi rappresenta una variabile importantissima che è capace di condizionare le società, gli equilibri politici, interi assetti regionali. Sembrerà una banalità, ma soltanto con l'arrivo e l'afflusso di armi i gruppi miliziani possono organizzare ad esempio resistenze. Si può plasmare la vita di intere regioni, dare potenza di fuoco appunto a gruppi criminali. Allora, per capire l'importanza di queste analisi, sentiamo Simonetta Grassi, che è responsabile del programma mondiale sulle armi da fuoco di UNODC, che è l'agenzia anticrimine delle Nazioni Unite, e appunto a lei ho posto proprio questa domanda: perché occuparsi del traffico illecito di armi? Il traffico illecito delle armi è un poco come il veicolo oppure il combustibile che alimenta i conflitti armati, che alimenta la criminalità, sia la criminalità ordinaria come anche naturalmente e soprattutto la criminalità organizzata, ed è anche, sono anche degli oggetti molto lucrativi del traffico illecito, si parla di un mercato anche molto importante. E quindi studiare i traffici illeciti, i movimenti di queste armi è anche importante non soltanto per seguirne le tracce, ma anche per capire, identificare quali sono i paesi di origine e di destinazione finale di transito dove questi traffici vengono commessi. E questo poi ci riporta anche alla possibilità di stabilire connessioni con gruppi terroristi, con criminalità organizzata e anche a capire quando i traffici vengono commessi da funzionari di Stato, quando si parla della grande corruzione. Quindi studiare i traffici illeciti è un modo per studiare la criminalità anche più ampia. Ecco Grassi, prima di tutto, come conducete la vostra analisi? Due parole sulla metodologia, poi ci addentriamo invece proprio nel merito dell'analisi stessa. Ecco, vorrei differenziare, la UNODC ha condotto degli studi di carattere regionale finora che avevano come oggetto quello di studiare i rischi e i pericoli connessi alla criminalità organizzata. In questo contesto ha fatto uso di una varietà di fonti anche ufficiali e non ufficiali. Adesso da poco abbiamo lanciato, stiamo lavorando sul primo studio globale che concentra sul traffico illecito delle armi, ed è uno studio che cerchiamo di realizzare in collaborazione con gli Stati membri. Abbiamo preparato dei questionari che hanno come oggetto ricavare informazioni sulle armi sequestrate dagli Stati e al fine di dedurre dall'analisi di queste armi sequestrate e dalle loro origini e da tutta una serie di indicatori che vengono inclusi in questi questionari, cercare di capire, di dedurre un poco quali possono essere, qual è la natura transnazionale di questo traffico, quali sono le vie, le rotte del traffico, la dimensione. E appunto abbiamo scelto di basare lo studio sulla informazione ricavata dalle armi sequestrate, perché si tratta di armi che vengono già di per sé collegate con una qualche attività illecita. Naturalmente nell'ambito di questi questionari noi cerchiamo anche, una delle prime cose che facciamo è di differenziare quante di queste armi che vengono sequestrate effettivamente provengono dal traffico illecito, perché molte armi possono anche essere state utilizzate in un contesto criminoso, però non essere state trafficate. Allora anche questa è un'informazione importante, perché ci aiuta a capire, tanto a noi come agli stati che partecipano, ci aiuta a capire qual è la dimensione della problematica. Ci sono paesi che non hanno un problema grande di traffico, però si scoprono, analizzando le origini di queste armi sequestrate, per esempio scoprono di avere un problema interno di corruzione, di furti, di deviazioni delle armi, magari dai depositi militari o della polizia. Quindi sì. Abbiamo fondato lo studio sull'analisi delle armi sequestrate e siamo adesso nella fase in cui stiamo analizzando i risultati. Abbiamo mandato questo questionario, si tratta in realtà di due questionari, un questionario che chiede ai paesi per ogni anno informazioni sui totali delle armi sequestrate, seguendo anche una certa tipologia di armi per differenziare che tipo di arma, si sta parlando sempre di armi da fuoco, però anche lì per noi è molto importante poter distinguere se parliamo di pistole, di fucili o di altri tipi di armi, perché possono anche essere indicativi di un certo mercato, di una certa realtà che vive il paese. E poi il secondo questionario è un questionario che chiede dei dettagli più precisi su quelle che possono essere definite dei sequestri significativi, e lì lasciamo ai paesi la scelta di definire che cos'è un sequestro significativo, se lo considerano in base al numero di armi che vengono sequestrate. È diverso sapere se in una operazione vengono sequestrate 200 armi oppure se il paese si scontra con una realtà di tanti tanti sequestri di piccole armi, il cosiddetto traffico a formica, come quello che per esempio si realizza fra il Messico e gli Stati Uniti. Quindi questi questionari sono fatti mandati ai paesi e noi stiamo cercando di ricavare informazioni dal 2010 in poi, proprio per poter anche identificare delle tendenze. Per il momento abbiamo avuto risposte da nemmeno circa 30 paesi, soprattutto paesi del Sud America, però abbiamo anche avuto risposte da paesi dell'est, dell'Europa dell'Est, Romania, Russia e alcuni paesi dell'Africa, i paesi baltici, hanno pure risposto, non hanno risposto gli Stati Uniti, la Cina, il Canada, altri paesi esportatori, purtroppo. Speriamo di ottenere anche da loro l'informazione. E con questo studio cercheremo di fare delle analisi non soltanto globali, ma anche con delle analisi regionali per vedere quali possono essere le differenze, le realtà diverse che abbiamo. Chiarissimo. La interrompo, Grassi, per sapere, ad esempio, se l'Italia ha risposto. No, ancora no. Però speriamo che risponda. Chi è il soggetto che nella fattispecie risponde? Cioè, quale ministero è deputato a darvi questo tipo di informazioni? Il Ministero dell'Interno, immagino? Eh sì, il Ministero dell'Interno, perché si tratta di informazioni su delle armi sequestrate. Noi naturalmente come procedura scriviamo ai rispettivi ministeri degli esteri, certo, e poi chiediamo di canalizzare la richiesta all'istituto competente. Certo. Lei ha identificato una relazione tra, diciamo, i paesi più reticenti nel rispondere, cioè quelli più reticenti nel rispondere sono anche i paesi esportatori e produttori di armi? O è una domanda troppo maliziosa? È un po' maliziosa, diciamo, perché per esempio abbiamo risposte dal Brasile, che è uno dei maggiori paesi esportatori, abbiamo risposte dall'Argentina, che nella sua regione pure è uno dei maggiori paesi esportatori, certo a livello regionale, e quindi da questo punto di vista forse non è facile da dire. C'è anche da dire che i paesi, anche i paesi più sviluppati, hanno delle pratiche diverse di raccogliere i dati sulle armi sequestrate. I paesi che hanno un sistema federale non sempre centralizzano queste informazioni, quindi bisogna anche riconoscere che per alcuni di questi paesi è stato difficile raccogliere l'informazione in maniera completa. Sì, sì, sì, chiarissimo. Quindi prima di gridare al complotto, quindi, o suggerire malizie, no, certo, per carità, non volevo assolutamente. Però, per esempio, il Messico, che è uno stato pure federale, e ci ha mandato una informazione ultra dettagliata, il che significa che è un paese che già per conto suo raccoglie sistematicamente questi dati. Vorrei aggiungere che una delle finalità, diciamo, a lungo termine, che speriamo di ottenere attraverso questo studio, è proprio quello di educare in qualche modo gli stati a raccogliere in maniera sistematica questo tipo di informazione e possibilmente analizzarlo, affinché siano gli stati stessi in primo luogo e i primi a poter analizzare e avere un'idea di quello che sta succedendo nel loro paese. Dopodiché questi dati possono essere condivisi fra di loro o anche con organismi internazionali o con terzi, e possono servire ad un'analisi globale come quella che cercheremo di fare, però innanzitutto devono essere loro gli stati. In Africa, per esempio, molti paesi hanno manifestato un fortissimo interesse, ma non sono stati in grado di partecipare. Questi stati li stiamo cercando di aiutare con un registro che stiamo sviluppando e dando a questi stati, affinché almeno comincino a raccogliere queste informazioni. Quello che stiamo tratteggiando in questa prima puntata in Nessun Luogo Lontano è lo scenario, è il dietro le quinte, è il background di tante crisi internazionali, è quello che dobbiamo sempre tenere presente quando i titoli di un GR, di un telegiornale irrompono in casa nostra e ci raccontano di una nuova crisi, di una nuova guerra. Dietro c'è tutto quello che stiamo raccontandovi quest'oggi, cioè trafficanti di armi, quel tipo lì di armi e quei guadagni. Nessun luogo è lontano. Ancora buon pomeriggio, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, ben ritrovati. Questa è la prima puntata del nuovo ciclo di Nessun Luogo Lontano, puntata speciale, così come le altre quattro che seguiranno. Piccolo glossario per orientarsi nella grande attualità internazionale. A come armi, A come arsenali che si sono aperti. Stiamo mappando il traffico illecito di armi, che è un'informazione che ci permette di leggere meglio le crisi, le guerre che si rincorrono al di fuori dei nostri confini. Con Simonetta Grassi abbiamo cercato anche di capire, da un lato, il preziario, cioè di mettere a fuoco ancora dal loro osservatorio privilegiato dell'ONU il valore del commercio illecito di armi, e poi quali sono i paesi sui quali appunto si concentra maggiormente questo traffico. Ecco, allora, noi nei nostri questionari non abbiamo chiesto, e forse è stato un po' un errore che dovremmo correggere, non abbiamo chiesto i prezzi delle armi.

tutto il commercio mondiale di armi. Infatti il progetto si chiama Mapping Arms Data, cioè MAD, appunto. E sentite Robert Muga, che innanzitutto ci racconta che cosa è successo di quel progetto che esiste da alcuni anni. Yes, we started the project called Mapping Arms Data, or MAD. Abbiamo cominciato il progetto Mapping Arms Data, o MAD, nel 2012, con Google Ideas e un altro gruppo chiamato NISAT, con base in Norvegia, per cercare di mappare la dimensione totale del commercio di piccole armi nel mondo. Dal 2012 l'abbiamo aggiornato per includere informazioni e dati più recenti, provenienti da registri pubblici. E abbiamo anche introdotto un nuovo indice per permettere agli utenti di interagire meglio con la mappa globale e per conoscere i prezzi medi dell'AK-47 in tutti i paesi del mondo. And to spot the prices, the average price for AK-47s in every single country. Se volete buttare l'occhio all'applicazione, andate su Google, digitate Mapping Arms Data e lo troverete subito. Ripeto, il colpo d'occhio è incredibile, c'è l'intero globo che viene segnato da queste strisce colorate che indicano appunto l'import e l'export dei vari paesi. Perché ci concentriamo sul commercio di piccole armi nel mondo? Piccole armi intendiamo sia ad esempio le pistole, ma anche filarmi leggere come il Kalashnikov. Perché è vero che magari desta scalpore trafugare un blindato, no? Il commercio illegale di armi molto pesanti, ma in realtà il pericolo, quello vero, quello più strisciante e quello più diffuso, è dato proprio dalle piccole armi nel mondo. A Robert Muga, che dirige l'Igarapé Institute di Rio de Janeiro e che è il creatore di questo Mapping Arms Data, abbiamo anche chiesto in che modo la trasparenza nelle negoziazioni delle armi, quindi la negoziazione ufficiale, che è quello di lui cui si occupa, ci può aiutare a capire il traffico illecito delle armi, che è un po', se volete, la seconda vita delle armi. First of all, the first point to make is that every gun and every round of ammunition, virtually every gun and round of ammunition. Innanzitutto bisogna ricordare che tutte le armi e munizioni iniziano la loro vita in modo legale. Il loro percorso comincia in una fabbrica, da qualche parte in Europa, Asia, America o Africa. Poi possono essere immesse nel mercato legale, trovando impiego nelle forze di polizia, nelle forze armate o per uso civile. Oppure possono diventare parte del traffico illecito. Il problema è che per molti anni non c'è stata trasparenza sulla produzione, il commercio o anche il possesso legale di pistole e munizioni nel mondo. I diplomatici dell'ONU si sono sempre concentrati sugli armamenti pesanti, come sottomarini, navi e aerei militari, missili, carri armati, senza contare le armi che fanno più danni nel mondo, ovvero quelle di piccolo calibro e quelle leggere. Noi, come Igarapé Institute e i nostri partner, abbiamo cominciato questo progetto per gettare una luce sull'estensione del mercato delle armi leggere nel mondo. Ci siamo focalizzati non solo sul traffico illecito, ma anche sul mercato legale, perché pensiamo che i governi debbano essere in grado di interpretare e documentare queste informazioni per riuscire a mettere in campo soluzioni politiche razionali al mercato nero. Se non conosci il problema, non puoi risolverlo. If you don't diagnose properly the problem, it's very difficult to prescribe the right medicine. E se invece lo conosci molto, molto da vicino il problema, come è il caso di Robert Muga, allora addirittura si possono anticipare le future zone calde, addirittura si possono prevedere le prossime guerre. Lui aveva scritto un editoriale molto importante su Atlantic, sul magazine statunitense, poco tempo fa, ebbene gli ho rivolto proprio questa domanda. I'm saying that I hope we can contribute to a better understanding of where there might be tomorrow's hotspot. Spero che potremo meglio capire le prossime zone calde. Il primo obiettivo del MAD, infatti, è quello di rendere pubblico l'accesso ai dati provenienti dai paesi dell'ONU. Ci occupiamo anche di riempire i buchi, perché c'è un certo numero di nazioni che non invia regolarmente dati sulle armi all'ONU. La diagnostica e le previsioni che forniamo sono buone, grazie alle informazioni che abbiamo, e probabilmente siamo uno dei migliori archivi pubblici attualmente esistenti al mondo. Analizzando il MAD, possiamo dire che quando c'è un sorprendente incremento dell'import di armi leggere e munizioni, solitamente c'è anche un'escalation negli omicidi e nei conflitti. Un esempio calzante di questo fenomeno è l'America Centrale e la parte nord dell'America Latina. in paesi come El Salvador, Honduras, Guatemala, Colombia e Brasile. Uno dei casi esemplari è il Sudan. Nel 2002-2003 c'era un embargo militare nei confronti del Sudan alla vigilia del genocidio in Darfur. C'è stato un incremento dell'importazione di piccole armi direttamente dall'Iran. Quasi esattamente nello stesso tempo sono aumentate le uccisioni e le atrocità di massa in quella nazione. Si può dire che con MED possiamo capire la relazione tra il commercio globale di alcuni beni, come le piccole armi, e alcune conseguenze certe, come la crescita di omicidi e conflitti. Infine una chiosa chiesta a Robert Mugga, suonerà forse un po' naif, filosofico come domanda, come approccio nel migliore dei casi, ma insomma a lui ho chiesto: possiamo dire di vivere in un mondo pesantemente armato, lui che quel mondo lo mappa anche visivamente? Is the world awash in arms and is there anything we can do with it, do about this? Il mondo è pieno di armi e non c'è niente che possiamo fare a riguardo. La risposta in alcuni luoghi del mondo è sì. Parliamo di nazioni come l'Afghanistan, lo Yemen, ma anche gli Stati Uniti, paesi in cui le società sono altamente armate, con 80, anche 90 pistole ogni 100 abitanti. Ma ci sono molte parti del mondo in cui ci sono poche armi. Penso al Giappone, ad alcune nazioni dell'Europa occidentale, dell'Asia e anche dell'Africa. Sappiamo che il commercio di armi conta qualcosa come 875 milioni di armi nel mondo in questo momento. Ma è difficile avere una cifra esatta, perché le armi hanno una vita lunga. Di queste, circa 650 milioni sono nelle mani dei civili. Quindi la maggior parte delle armi leggere è di proprietà di cittadini comuni. 200 milioni sono le armi dei militari, meno di un quarto della quota globale. Mentre sono solo 26 milioni le armi impiegate dalla polizia. Infine, pensiamo che le armi in mano a ribelli, insorti e terroristi siano solo una parte molto piccola, meno dell'1% della quota mondiale. Il punto è che c'è un numero elevato di armi, ma che è altamente concentrato in un numero relativamente basso di paesi e di persone. Penso che gli Stati Uniti da soli detengano un quarto dell'intero commercio mondiale. Quindi sì, ci sono molte pistole nel mondo. Possiamo fare qualcosa? Secondo me sì. Pensiamo alle mine. Più di 20 anni fa la comunità internazionale ha deciso di ripulire il mondo dalle mine e di renderlo più sicuro. Il risultato è che oggi siamo in un mondo quasi del tutto privo di mine. Ciò è accaduto perché i governi e le società civili si sono uniti per cercare di costruire una via insieme, per diminuire e regolare la produzione, bandire alcuni tipi di mine particolarmente distruttive e per bonificare i terreni. Non credo che ci sarà mai un mondo senza pistole. Non so neanche se sarebbe una buona idea, ma penso ci siano buone opportunità per avere capacità diagnostiche migliori e ridimensionare il problema. Nessun luogo è lontano. E dopo aver fotografato quella che è la presenza, il massiccio numero di armi trafficate nel mondo, è venuto il momento, in questo piccolo glossario che stiamo realizzando nella prima puntata di Nessun Luogo Lontano, di capire l'impatto di un mondo pesantemente armato, come lo stesso Robert Mugga ha detto. E in questo ci supporta e ci soccorre il lavoro di un antropologo. Luca Giurdan insegna appunto antropologia dei processi politici all'Università di Bologna, è autore fra l'altro di Generazione Kalashnikov, un antropologo dentro la guerra in Congo. Giurdan, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, grazie. Allora, Generazione Kalashnikov è un libro eccezionale perché indaga da vicino, sul campo, l'impatto delle armi nella società congolese, un paese africano martoriato da una guerra lunghissima e sostanzialmente noi fino adesso abbiamo sentito quante armi girano nel mondo e come vengono monitorate. Ora cercheremo di capire invece con Luca Giurdan al di là, come al di là del loro potere di morte, del potere di fuoco, plasmano la società. Partiamo dalla sua esperienza diretta, Giurdan. Lei quando è stato in Congo e quando ha visto per la prima volta i Kalashnikov imbracciati anche da combattenti molto giovani? Ma per la prima volta sono stato in Congo nel 2000 e poi diciamo dal 2000 fino ad oggi ho sempre frequentato quel paese, soprattutto le regioni orientali che sono al centro, sono l'epicentro del conflitto, quindi sono più o meno 12-13 anni che frequento quelle regioni. Ecco, il Kalashnikov è una presenza ingombrante, soprattutto in Kivu, insomma, parliamo del Kivu, che è questa regione all'est, al confine con Ruanda, che anch'io ho avuto modo di visitare in un periodo un po' più ristretto di tempo, in verità. Il Kalashnikov è una presenza ingombrante, è facilmente reperibile, è imbracciato da quasi tutte le milizie armate, ce ne sono tantissime, è imbracciato anche da combattenti estremamente giovani. Come questa ingombrante presenza ha cambiato le strutture sociali, le strutture familiari di un intero paese? Sì, guarda, per rispondere a questa domanda vorrei partire da un esempio molto concreto. Era forse il 2005 o giù di lì, facevo le mie ricerche nell'est del Congo, che ebbi modo di conoscere un giovane bambino soldato, appunto un bambino soldato, aveva 15 anni, si chiamava Bonanne. Ovviamente noi diciamo bambini soldato, ma 15 anni in Congo, avere 15 anni in Congo non è la stessa cosa che avere 15 anni a Bologna, Milano, eccetera. Comunque, al di là di questo discorso, mi ricordo Bonanne, l'ho incontrato, lui era un bambino miliziano che aveva girato diversi gruppi armati, era stato nei Mai Mai, è stato in altre formazioni militari, eccetera, e quando lo incontrai stava tornando a casa in un paesino, Lukanga, a visitare i suoi genitori. Allora lui è arrivato in questo paese, aveva gli stivali nuovi, aveva una radio al collo, era pulito, era vestito bene, l'aria un po' da duro certamente, e tutti i bambini facevano capannello intorno a lui e lo guardavano ammirati. Questi altri bambini avevano ovviamente senza scarpe, la solita maglietta stracciata, sporca, sempre addosso, eccetera. Anche nell'immaginario infantile, Bonanne, che era colui che appunto aveva deciso di imbracciare il Kalashnikov, che insomma è l'arma che tutti i gruppi ribelli hanno, era in qualche modo nell'immaginario infantile una figura vincente. Lui, grazie a questa sua scelta, aveva accesso a questi beni per diciamo localmente di lusso, no? La radio, pensate, per un bambino africano avere una radio, essere pulito, è bello essere pulito quando invece sei sempre con la stessa maglietta stracciata, insomma, conta moltissimo, no? L'aspetto estetico, il vestito, eccetera, eccetera, sappiamo. È la prima cosa, no, che uno può mostrare per in qualche modo evidenziare un suo status mutato, un suo status diverso. E appunto lo guardavano ammirato, quindi in qualche modo questa scelta qua nel brevissimo periodo è una scelta che ti premia, tu decidi, no? L'arma ti dà accesso, il fatto di diventare un miliziano hai accesso a delle cose a cui tu normalmente non hai accesso, a cui tu storicamente sei stato escluso, ma sai che esistono, sai che esiste la radio, sai che esistono le macchine, sai che esistono le motociclette, ma non hai mai accesso. Ma se tu opti per la violenza hai questa opportunità qua, che ovviamente poi nel medio-lungo periodo è una scelta sbagliata, ma nell'immediato bisogna anche vedere l'opportunità della violenza, non solo declinarla sempre al negativo. Discorso crudo e chiaro allo stesso tempo. Hai parlato di accesso all'arma. La mia esperienza mi dice che c'è un accesso a quelle armi, almeno fino, diciamo, almeno un paio di anni fa, adesso forse le cose stanno un filo cambiando. C'era un accesso estremamente facile, cioè, forse ho già citato altre volte, chi mi segue forse ricorderà questo aneddoto, ma un collega della BBC, credo nel 2008, riuscì a scambiare un cellulare per un Kalashnikov funzionante, cioè una roba da $30 per intenderci. Ecco, l'accesso è così facile in quelle regioni, ma e perché soprattutto? Perché da dove arrivano tutti questi Kalashnikov, questo numero impressionante di armi che girano? Sì, allora ovviamente no, l'accesso è facilissimo, voglio dire, se un signorotto della guerra decide di costituire la sua milizia armata, come tu sai ancora nell'est del Congo sono ancora decine e decine le milizie armate attive, più o meno grandi, più o meno organizzate. Posso fare un esempio specifico, quando ero a Butembo, che è una cittadina dell'est del Congo che tu anche hai conosciuto nei tuoi viaggi, anche un centro commerciale importante, all'epoca, sto parlando appunto primi anni 2000, era controllata da un signorotto della guerra, si chiamava Mbusa Nyamwesi, poi è diventato ministro, eccetera. Allora lui si riforniva di armi, aveva il suo esercito, si riforniva di armi in Mozambico, perché in Mozambico con la fine della guerra nei primi anni 90 fra la guerra civile, Renamo e Frelimo, ovviamente c'erano armi, arsenali che non venivano più usati localmente e sono entrati sul mercato interno africano e quindi partivano con aerei a rifornirsi, i soldi ce li avevano e portavano armi in Congo. Questo è un esempio, ma insomma è chiaro che c'è un mercato, diciamo, ampio, internazionale, ma vi è anche, come dire, un mercato molto, molto continentale, talvolta anche regionale, no? Tutte delle, sappiamo, non so, il crollato regime etiope era uno dei regimi armato fino ai denti e tutte quelle armi lì sono entrate, sono iniziate a circolare nell'Africa, sono state vendute, un po' come è successo, insomma, col crollo dell'Unione Sovietica poi nell'89, insomma, quegli arsenali sono stati svuotati, sono entrati in circolo. Quindi il prezzo è basso semplicemente perché c'è molta offerta, un puro discorso economico, e quindi vuol dire che è facilmente accessibile, ce lo si può comprare con poco. Chiarissimo, il fatto comunque dell'apertura degli arsenali, accennavi l'esempio su tutto il crollo del regime etiope, l'abbiamo visto ad esempio con la caduta di Gheddafi, no? Molto spesso un collasso di un regime autoritario e militarista poi porta anche a conseguenze inaspettate. E mi interessava però tornare, Luca Giurdan, agli aspetti più strettamente legati a quella che è la tua attività, no? Sei antropologo, quindi studi queste dinamiche riguardo alla società, riguardo all'uomo. Hai accennato al fatto come imbracciare un fucile peraltro poi così simbolico. Ecco, da un lato volevo chiederti se questo potere iconografico, se questo potere, no, che va al di là dei pezzi simbolico. Di ferro, esatto, simbolico, è percepito anche in Africa o se è più forse delle zone, non so, del Centro America e del Medio Oriente? No, vabbè, ci sono paesi africani che hanno messo il Kalashnikov nella bandiera, quindi è chiaro che è il fucile per eccellenza della ribellione, della rivoluzione, quindi è veramente molto carico simbolicamente. A parte che c'è anche un, come dire, al di là del lato simbolico c'è anche il lato pratico, che è un fucile che funziona molto bene, no? Quindi che non si inceppa mai, insomma, funziona sì. In tutte le condizioni. E poi è certo che entra anche, come dire, ha una sua estetica il Kalashnikov, assolutamente una sua estetica. Quando c'è un immaginario, diciamo, globalizzato sulla guerra, che è probabilmente uno dei immaginari più importanti che si vende meglio al mondo, no? Da Rambo in poi è ovvio che la violenza ripugna così come affascina, no? Il soldato ripugna, ma così come attrae, come affascina, no? Dietro è carico di macismo, è carico di maschilismo, eccetera. Tutto questo certamente viene declinato localmente e quindi ha un suo potere di attrattività per questi giovani, e soprattutto in un contesto dove ci sono dei dati strutturali dietro, dove chiaramente l'assenza di opportunità per mille ragioni, non abbiamo tempo qua di esplorare, eccetera, ha fatto sì che diventare un miliziano, arruolarsi, è una delle rare possibilità di mobilità sociale, cioè sono qualcuno, no? In braccio il Kalashnikov, sì. Sono qualcuno. Grazie mille. Luca Giurdan, lo ricordo, insegna antropologia a Bologna, autore di Generazione Kalashnikov, se non l'avete letto ne vale la pena, un antropologo dentro la guerra in Congo. Buona giornata e buon lavoro, Luca. E siamo in chiusura di questa prima puntata speciale di Nessun Luogo è Lontano, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. È partito un piccolo vocabolario, un piccolo glossario per meglio leggere l'attualità internazionale, quando saremo insieme tutti i giorni, tutto il mese di agosto in diretta per raccontare giorno per giorno, ora per ora, quello che accade al di fuori dei nostri confini. Però comprendere bene le armi, il loro valore, il loro potere, anche al di là della potenza di fuoco, come avete sentito, quanto vale quel mercato lì, come si spostano le armi, è un tassello fondamentale per meglio leggere le grandi questioni internazionali e le grandi crisi. Allora, siamo in chiusura, vi ricordo la pagina Facebook Nessun Luogo Lontano - Radio 24, Twitter mi cercate, mi trovate sotto il nome di Giampaz. E allora adesso i titoli di coda. Ringraziare Mire Lucchetti, che in redazione ha scritto con me questa puntata di Nessun Luogo è Lontano, e Gianmarco Ferronato, che ha dato musica e ritmo. Noi ci risentiamo domani stessa ora per il secondo capitolo, la seconda pagina del nostro breve glossario dell'attualità internazionale. Intanto un saluto, una buona giornata da Gianpaolo Musumeci.